Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. A tutti voi, cari ascoltatori, l'augurio di una buona serata. Eccoci nuovamente all'ascolto del Vangelo di Marco per continuare a crescere in sintonia con questo evangelista. Come sapete, il nostro appuntamento mensile ha proprio come obiettivo quello di aiutarci a entrare nella narrazione di Marco, scoprire quelli che sono i punti forti, la forza e l'attualità del suo messaggio, riuscendo a far dialogare la parola con la nostra vita. Siccome siamo coscienti che questo è un compito non facile, soprattutto è un compito che non compete solo all'uomo ma anche allo Spirito di Dio, allora invoco fin dall'inizio insieme a voi l'assistenza dello Spirito Santo, perché sia Lui a lasciar parlare la forza, queste pagine del Vangelo all'interno dei nostri cuori e delle nostre vite, al di là dei limiti e delle caratteristiche di chi vi sta parlando in questo momento. Come all'inizio di ogni puntata, chiedo l'aiuto del contributo della preghiera ad alcuni ascoltatori. Ecco, in questo lunedì vorrei chiedere l'aiuto nella preghiera a quelle mamme che in questo momento magari sono preoccupate o stanno soffrendo a causa dei loro figli. Chiedo a queste mamme di dare proprio il contributo, di offrire la loro sofferenza perché la parola di Dio possa correre e consolare anche attraverso il loro contributo altri ascoltatori, coscienti che la parola ha una forza che va al di là di quello che noi possiamo anche solo immaginare o pensare. Ecco, cari ascoltatori, nella nostra lettura del Vangelo di Marco siamo arrivati al capitolo 14. La volta scorsa abbiamo terminato con il discorso di Gesù sugli ultimi tempi e quest'oggi ci dedicheremo sostanzialmente ai primi 11 versetti del capitolo 14. Tra l'altro questo capitolo apre un nuovo atto narrativo. Abbiamo visto fino adesso che il Vangelo di Marco si snoda per grandi atti narrativi. Quello che inizia al capitolo 14 e che va dal versetto 1 al versetto 50 rappresenta il sesto atto narrativo. È molto bella l'impostazione del Vangelo di Marco perché è un po' impostato come una nuova creazione. La creazione avviene in 7 giorni, la narrazione di Marco si svolge in 7 giorni, in 7 atti narrativi, come 7 giorni della nuova creazione. E il sesto atto narrativo, che nei giorni della Genesi combacia con la creazione dell'umanità, qui, vedremo, è l'atto narrativo che si svolge attorno al banchetto, dove avviene il dono per eccellenza di Gesù, il dono di se stesso nell'Eucaristia. Vedremo 3 sono i banchetti che caratterizzano questo sesto momento della narrazione di Marco. Il primo banchetto è il banchetto di Betania, quello su cui ci soffermeremo questa sera, e subito dopo viene il banchetto dell'ultima cena e l'ultima tavola imbandita è quella dove Gesù deve donare se stesso ed è il cosiddetto banchetto, così io lo chiamo, tra virgolette, del Getsemani. Noi però stasera ci soffermeremo solo sulla prima cena, la cena che si svolge a Betania. Ecco, questa cena viene narrata in 11 versetti che sono costruiti dal punto di vista narrativo a forma di cornice, cioè all'inizio e alla fine dell'episodio viene narrato l'obiettivo dei capi dei sacerdoti che si propongono di arrestare Gesù, alla fine Giuda dà loro una mano e porta a compimento questo loro disegno, mentre al centro c'è l'episodio più importante, che è l'episodio dell'unzione di Betania, nel quale proprio cercheremo di entrare nei dettagli. Nella nostra riflessione leggeremo queste 3 parti del testo, quindi l'apertura, il nucleo centrale e la chiusura, e di ogni parte cercheremo di mettere in evidenza il messaggio che può essere valido per noi. dando a volte particolare significato anche ad alcune singole parole, perché alcune singole parole, in base a come noi le traduciamo, hanno una valenza, un significato particolare e quindi anche un messaggio di attualità forte per noi che ascoltiamo. Iniziamo quindi con la cornice di apertura, che è caratterizzata, è costruita attorno ai primi due versetti. Sentiamo cosa ci dice Marco in questi versetti. Due giorni dopo dovevano celebrarsi la Pasqua e gli azimi. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di arrestarlo con inganno e farlo morire. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non ci sia una sommossa del popolo. Bene, noi abbiamo qui a che fare con due versetti che, ascoltati così, sembrano essere innocui, sembrano dire poco, dire niente. E invece, se noi scaviamo all'interno di questi due versetti, troviamo già dei messaggi forti che possono nutrire la nostra vita e la nostra esperienza di fede. Prima di tutto ci viene detto che quello che sta succedendo nella cornice viene ambientato in due feste ben precise. Le due feste sono la Pasqua e gli azimi. Ecco, è importante per l'ascoltatore riuscire a capire il significato che avevano queste due feste nella tradizione di Israele. La Pasqua in origine era una festa che era nata in ambiente, nell'ambiente dei pastori e era segnata dall'offerta delle primizie del gregge a Dio, alla divinità. Nella tradizione di Israele la festività di Pasqua viene riletta alla luce dell'evento dell'Esodo e viene quindi storicizzata nel momento in cui il popolo di Israele, schiavo in Egitto, viene liberato dalla schiavitù e quindi acquisisce una nuova identità di uomo libero, ritrova la sua dignità di figlio libero di Dio e inaugura quindi un percorso che lo porterà nella terra promessa. Dire Pasqua, quindi, per il popolo ebraico significa dire libertà profonda dell'uomo. L'altra festa invece è la festa degli azimi. La festa degli azimi in origine era una festa agricola. Questa festa consisteva nell'offerta, anche qua, delle primizie del raccolto al Signore. Con l'evento dell'Esodo viene storicizzata come la festa dei frutti nuovi della terra. E tutto questo viene costruito attorno al rito degli azimi, cioè al rito dei pani non lievitati. In che cosa consisteva la festa degli azimi? Consisteva praticamente nella messa in atto di una ritualità secondo la quale per i giorni successivi alla Pasqua, i 7 giorni successivi alla Pasqua, non si poteva mangiare nulla di lievitato. In quanto il lievito era considerato qualcosa che apparteneva alla stagione vecchia e doveva essere sostituito con un lievito nuovo. E perché ci fosse questo passaggio dal vecchio al nuovo era necessario un periodo appunto di stacco di 7 giorni in cui il popolo non mangiava niente di lievitato per 7 giorni in modo che il lievito vecchio scomparisse del tutto dalle case. Pensate ancora oggi. Gli ebrei osservanti compiono questa ritualità in occasione della Pasqua. Prima della Pasqua c'è tutta una serie di pulizie legate alla casa in cui si toglie da casa tutto ciò che può richiamare il lievito vecchio, dalle briciole di pane, alle briciole dei biscotti, della pasta, tutto deve essere pulito dalle case, proprio per lasciar posto al lievito nuovo. Ovviamente anche qui questo passaggio indica il passaggio è un rito simbolico che richiama il passaggio alla novità di vita. Quindi dire azimi significa dire novità di vita, come Pasqua significa dire libertà. Ora, questi due elementi sono in profonda contraddizione con quello che le autorità religiose stanno facendo. Se avete notato, il testo dice che Le autorità religiose dovevano celebrare la Pasqua e gli azzimi, però cercavano il modo di arrestare Gesù con inganno e di farlo morire. Quindi contraddicono la Pasqua, perché il loro obiettivo è arrestare Gesù, quindi mettere in prigione un uomo libero, tra l'altro senza colpa. Interessante il testo greco, perché il testo greco sottolinea che vogliono arrestare Gesù en dolo, cioè con inganno, dimostrando che Gesù, già con la scelta di questa parola, che Gesù non ha nessuna responsabilità. Quindi è un mettersi in contrapposizione con lo spirito della Pasqua. E subito dopo ci viene detto che, oltre a volerlo arrestare, c'è dentro quindi il loro spirito qualcosa che non va bene. Questo spirito di inganno che abita i loro cuori era considerato nella tradizione spirituale ebraica il simbolo del lievito vecchio. Se voi ricordate, ci sono dei passaggi nelle lettere di Paolo dove Paolo invita i primi credenti ad abbandonare il lievito vecchio per essere pasta nuova nel Signore. Era questo un linguaggio che era diffuso nel primo secolo e spesso il lievito vecchio era associato a quelle disposizioni del cuore che rompevano le relazioni, e una di queste disposizioni del cuore era proprio quello dello spirito negativo, lo spirito dell'inganno. Quindi le autorità religiose, i capi dei sacerdoti e gli scribi, che dovrebbero essere coloro che tutelano l'identità del popolo, che tutelano la verità delle singole feste, stanno per celebrare una cosa, quindi celebrano la Pasqua, festa della libertà, e gli azimi, festa del lievito nuovo, ma nello stesso tempo vivono tutt'altro. Perché al posto di mentre celebrano la libertà vogliono imprigionare una persona, mentre celebrano il lievito nuovo portano dentro di sé il lievito vecchio con tutti i suoi effetti negativi. Quindi il messaggio che qui ci viene portato dall'Evangelista nel sesto atto narrativo è quello di celebrazioni tradite. Noi ci troviamo di fronte, in questi due versetti, al mistero delle celebrazioni tradite. Le grandi autorità religiose che dovrebbero essere portavoci di una celebrazione che si trasforma in vita, tradiscono alla radice quanto celebrano, tradiscono alla radice la loro stessa identità. E questo non avviene a caso, cioè avviene in un momento molto particolare della narrazione, nel momento in cui Gesù vivrà fino in fondo il dono di se stesso. E allora ci troviamo di fronte a due scenari totalmente diversi. Da un lato si staglia il profilo del Maestro che con la propria vita testimonia ciò che dice, donando totalmente se stesso, dall'altro si stagliano le autorità religiose del primo secolo che con la loro vita rinnegano ciò che invece stanno facendo e vivono quindi questa profonda distonia nel cuore. È ovvio che questo interpella tutti noi. Nel momento in cui l'Evangelista sta per porre al centro della sua narrazione il mistero dell'Eucaristia, il mistero dell'ultima cena, e questo diventa un monito per tutti coloro che leggono. Non si può celebrare senza vivere quello che quel mistero indica, e quel mistero indica un dono di se stessi totale. E vedremo come l'episodio centrale di questo elemento narrativo, vedremo cosa evidenzia, cosa significa il dono in questi 11 versetti. Le autorità religiose tra l'altro dicono non durante la festa, perché non ci sia una sommossa del popolo. Teniamo presente questa frase, la comprendiamo bene se teniamo presente il contesto in cui si svolge la scena. Siamo in prossimità della Pasqua, Gerusalemme in occasione della Pasqua si riempiva di pellegrini e le fonti storiche che noi abbiamo di quei tempi ci dicono che in occasione di questa festività la popolazione di Gerusalemme arrivava ad essere 6 volte tanto quella normale e quindi c'era tutta una problematica di ordine pubblico da gestire. Quindi era il momento meno propizio per sollevare problematiche attorno magari a figure che erano note dalla legge, che erano note al popolo. Ecco perché la gente dice, bene, teniamo presente questa cosa, ma non lo facciamo durante la festa, perché altrimenti rischiamo un sollevamento di popolo. Avverrà invece il contrario, e anche qua ci dice come ci sia sempre contraddizione nel pensiero delle autorità religiose, come se la loro vita sia divisa in due, pensano una cosa ma ne fanno un'altra, perché tutto si svolgerà proprio durante la festa e si svolgerà grazie all'assistenza del popolo presente, cioè sfrutteranno la situazione della presenza di gente a Gerusalemme che probabilmente non sa nemmeno chi è Gesù, per sobillare contro di lui i presenti, e ottenendo in questo modo non solo di farlo arrestare, ma anche di farlo mettere a morte. Ecco, questa è la prima cornice. Lasciamo un attimo un breve stacco musicale, perché anche questo permette un attimo di assorbire quanto ci siamo detto. Vi inviterei a rileggere un attimo questi due versetti in modo molto breve, mettendo bene a fuoco questo contrasto tra le autorità religiose e le feste che loro celebrano, prima di confrontarci con l'episodio successivo, che è l'episodio di Betania. Allora, i versetti successivi sono i versetti dal 3 al 9 e sono i versetti che raccontano l'episodio di Betania. Ascoltiamo come continua il racconto. Mentre egli si trovava a Betania, in casa di Simone il lebbroso, disteso a mensa, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di unguento di nardo genuino, molto costoso. Infranto l'alabastro, lo versò sul suo capo. C'erano alcuni che si sdegnarono tra loro. A che pro questo spreco di unguento? Si sarebbe potuto vendere questo unguento per oltre 300 denari, dando ai poveri. E la rimproverarono. Gesù però disse, lasciatela in pace, perché la infastidite? Lei ha compiuto un'opera buona nei miei confronti. I poveri li avete sempre con voi, potete far loro del bene quando volete. Me invece non mi avete sempre. Ciò che era in suo potere lei lo ha fatto. Ha unto in anticipo il mio corpo in vista della sepoltura. In verità vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo in tutto il mondo, sarà narrato in sua memoria anche quello che lei ha fatto. Ecco, dopo la cornice narrativa entriamo nella scena principale di questo episodio, l'incontro con la donna di Betania. Vediamo un attimo come viene presentata la scena. Prima di tutto c'è un tratto curioso, ci viene detto che Gesù si trovava a Betania in casa di Simone il lebbroso. Non sono pochi quelli che si chiedono come mai Gesù si trova in casa di un lebbroso. Noi sappiamo che, stando alle norme di purità del primo secolo, non era assolutamente permesso ad un lebbroso entrare in contatto con altre persone, perché significava far contrarre impurità alle altre persone. Ora noi qua ci troviamo con un maestro riconosciuto dalla gente, un maestro spirituale riconosciuto dalla gente, che entra a diretto contatto con un lebbroso. Qui gli studiosi hanno cercato in mille modi di spiegare l'enigma. C'è chi dice Simone il lebbroso sta per Simone che era stato lebbroso, probabilmente questo era uno dei lebbrosi guariti da Gesù, quindi Gesù ha una particolare sintonia con lui. Il problema è che l'Evangelista non dice Simone che era stato lebbroso, lo definisce Simone il lebbroso, quindi è lecito fare questa interpretazione, ma resta sempre un margine di dubbio che va rispettato. Il fatto che ci sia un margine di dubbio è dimostrato anche da tutte quelle correzioni scribali che hanno caratterizzato la trascrizione di questo testo. Chi ha accesso a quelli che sono i manoscritti antichi notano che in questo versetto gli amanuensi, quelli che trascrivevano il testo, fanno delle correzioni al testo, quindi c'è chi cambiando una sola vocale o una sola consonante modifica leggermente la definizione del lebbroso e quindi il lebbroso diventa il commerciante di ceramica. Qua basta una piccola modifica dal punto di vista del testo aramaico, che alcuni ritengono essere alla base dell'ebraico, del greco, scusate, in cui poi venne trasmesso il testo del Vangelo. Quindi il passaggio da Garba a Garabà sarebbe il passaggio dal lebbroso al commerciante di ceramica, per cui in alcuni manoscritti antichi noi troviamo che Gesù si trovava a Betania nella casa di Simone, il commerciante di ceramica. Altri manoscritti invece fanno un'altra modifica, qui legata ancora a una consonante, dove il lebbroso diventa invece la persona pia, quindi Gesù entra nella casa di Simone la persona pia, cioè basta modificare lievemente una consonante. E questo vi fa capire che le persone che trascrivevano il testo, arrivati a questo punto, si trovavano in difficoltà. Come mettere a contatto Gesù con un lebbroso? Era qualcosa di contrario alla legge. Tanto più mangiare nella casa di un lebbroso, perché Gesù non si limita a entrare in questa casa, si siede a mensa, e voi sapete che mangiare nel primo secolo con un'altra persona significava stringere un patto di amicizia perenne, un patto di alleanza, noi la definiamo in termini tecnici, un patto di alleanza con quella persona. Tra l'altro l'Evangelista dice che si trovava a Betania in casa di Simone il lebbroso disteso a mensa, il verbo utilizzato in greco indica proprio la modalità di prendere i pasti tipica del mondo pagano, soprattutto sono pasti festivi, quelli in cui ci si distende a mensa, quindi ancora più a contatto con l'ambiente in cui Gesù viene invitato. E in questo contesto giunge una donna. Quindi il contesto, la cornice in cui avviene la scena è più impura di così non può essere, nel senso che c'è un lebbroso, le usanze sono usanze pagane, l'essere disteso a mensa, e si presenta pure in questa sala una donna sconosciuta ai più. Teniamo presente che gli altri evangelisti cercano di identificare con precisione chi è la donna. Se voi andate a vedere il quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni, identifica tutti gli elementi di questo racconto. Chi ci dice che la donna è Maria, la sorella di Lazzaro, la casa dove si svolge il banchetto è la casa di Lazzaro, chi mormora contro la donna che è entrata è Giuda, che quantifica anche la questione dello spreco, la quantità dell'olio sprecato. Il racconto di Marco invece è enigmatico, perché a Marco non interessa l'identità della donna, non ne precisa il contenuto, non parla della casa di Betania come casa di Lazzaro, ma la identifica precisamente con la casa di un lebbroso, e invece insiste molto sul tipo di gesto che viene fatto, addirittura ne evidenzia i dettagli sottolineando tutti gli aspetti che caratterizzano quello che la donna fa, perché questa donna giunge, ci viene detto che aveva un vaso di alabastro, e l'alabastro era un materiale molto molto costoso, pieno di unguento di nardo, il nardo era un profumo anche qua che proveniva dalle zone dell'estremo est, alcuni ritengono che provenisse addirittura dalle zone dell'India e che era sicuramente tra i profumi più costosi del primo secolo, ma l'Evangelista si dà cura anche di sottolineare che questo nardo era genuino, il termine utilizzato è pistiches, cioè il nardo doc di origine controllata, quindi il più costoso, tanto vero che poi preciso ulteriormente molto costoso. Ora cosa fa questa donna? Infrange l'alabastro, cosa che non era necessario fare, perché rompe il vasetto, non era necessario rompere il vasetto, bastava aprirlo e versarlo, invece infrange l'alabastro e versa tutto il contenuto sul capo di Gesù. Ora, capite che la sottolineatura dei dettagli di quello che sta per essere evidenziato sottolinea tutto un elemento, lo spreco. Questa donna è l'emblema dello spreco in questa scena, e proprio per questo all'Evangelista non interessa individuare, identificare la donna. All'evangelista interessa sottolineare il suo gesto, perché in quel gesto lui vede l'anticipazione di un gesto importante, che è il gesto del dono della vita di Gesù. Cioè Gesù si donerà al mondo proprio all'insegna dello spreco. Gesù si donerà al mondo infrangendo l'alabastro che è il suo corpo. Gesù umilierà totalmente il suo corpo nel martirio della croce, in tutte le tappe che lo precederanno, le violenze dei soldati, la flagellazione, il cammino verso il Calvario, l'essere inchiodato sulla croce, l'essere umiliato da tutti quelli che gli stanno attorno. Tutto questo è l'alabastro che si infrange. E oltre a questo, il grande unguento prezioso che è la vita di Gesù, che viene versata sull'umanità. Non a caso, infatti, nella scena di Betania, l'olio e il nardo genuino non viene versato sui piedi, ma viene versato sul capo, quasi a dire, quasi a sottolineare un'unzione particolare del Maestro di Galilea. Versato sul capo, quell'olio, quel profumo diventa una sola cosa con il Maestro. Alcuni vi hanno addirittura visto qui, in questa scena, l'unzione regale di Gesù. Alcuni esegeti ritengono che nel gesto della donna di Betania, Dio stabilisce Gesù come Messia alle porte della sua passione. Va però detto una cosa, che il verbo utilizzato per indicare l'unzione della donna non è il verbo della crismazione, cioè il verbo dell'unzione che veniva utilizzato soprattutto per l'unzione dei re e dei profeti, non è il verbo crio, è un altro verbo, è il verbo myrizo, che in greco ha più a che fare con l'unzione dei lottatori, con coloro che vanno in battaglia e devono lottare. Quindi sembra più avere a che fare con la preparazione di Gesù alla grande lotta, quella che dovrà sostenere durante la passione, alla cosiddetta agonia. Agonia richiama appunto la lotta di Gesù. In questo contesto ci viene detto che alcuni si segnarono tra loro a che pro questo spreco di unguento si sarebbe potuto vendere questo unguento per oltre 300 denari dandoli ai poveri. Ora, notate, la sottolineatura è proprio sull'elemento dello spreco e questo spreco viene addirittura quantificato. I 300 denari corrispondono praticamente alla paga annuale di un operaio medio. Noi sappiamo dai Vangeli che la paga giornaliera di un operaio era quella di un denaro. Ora, 300 denari, voi potete fare il calcolo su quello che può essere la moneta attuale, per cui vi dice quanto in questo piccolo vasetto di alabastro, quanto valeva il contenuto, e la rimproverano. E a questo punto Gesù entra in scena e difende la donna. E notate, la difesa portata nei confronti della donna sottolinea l'importanza di quel gesto. Quello che sembra uno spreco del tutto inutile di un unguento ha in effetti una finalità molto più grande, che va al di là di questo gesto e che praticamente ha una fecondità immensa, perché a questo gesto Gesù associa la profezia: dovunque sarà proclamato il Vangelo in tutto il mondo, sarà narrato in sua memoria quello che lei ha fatto. Cioè quel gesto che sembra inutile, che sembra assurdo, che sembra segnato da uno spreco, diventerà un gesto essenziale narrato all'interno del Vangelo che si espande in tutti i quattro angoli del mondo. E allora in questo, ancora una volta, è anticipata la logica del mistero pasquale, dove la morte di Gesù non costituirà l'ultimo atto, ma il preludio di una vita destinata a espandersi e a diffondersi. Quindi ciò che viene letto dai presenti, noi sappiamo che i presenti sono soprattutto gli apostoli qua, Marco non identifica con uno di loro, identifica con tutto il gruppo, quindi ciò che viene identificato dagli apostoli come uno spreco si traduce di fatto in un beneficio per molti, al punto tale che persino l'essenza del profumo versato dalla donna sul capo del Maestro sembra espandersi nel tempo e nello spazio, raggiungendo intere generazioni di credenti ai quattro angoli del mondo. Giovanni, il quarto Vangelo, quando riprenderà questo episodio, sottolineerà proprio questo aspetto con l'immagine del profumo. Lui dirà che nel momento in cui viene compiuto il gesto di versare l'unguento sul capo di Gesù, il profumo riempì tutta la casa dove si trovavano. Questo anche in Giovanni ha un valore simbolico, è il significato del Vangelo: laddove il Vangelo entra, il Vangelo riempie, e riempie portando la forza della sua essenza, che inebria il cuore e trasforma la vita. L'importanza, ecco, di questa apertura è tra l'altro sottolineata dalla frase che Gesù dice prima di annunciare tutto questo. E la frase che dice è: in verità vi dico. Questa espressione "in verità vi dico" viene sempre utilizzata da Gesù per sottolineare alcune espressioni importanti che hanno un valore profetico, e qui il valore profetico è proprio quel: dovunque sarà proclamato il Vangelo in tutto il mondo, sarà narrato in sua memoria anche quello che lei ha fatto. Dietro questo discorso c'è il discorso anche dei poveri. Nel Vangelo di Marco la scena non si chiude con il discorso dei poveri, cioè: i poveri li avete sempre con voi, potete far loro del bene quando volete, me invece non mi avete sempre, ma si chiude con un'apertura al mondo. Questo non significa che a Gesù non interessino i poveri, ma Gesù sta sottolineando una cosa più importante dell'aiuto materiale. Prima dell'aiuto materiale è necessario che ci sia qualcuno in grado di sprecare qualcosa di se stesso per l'altro. Se io comunico questo insegnamento, allora anche la povertà verrà risolta, lentamente, progressivamente, ma verrà risolta, perché c'è qualcuno che è in grado di sprecare qualcosa di sé per l'altro. Ma se manca questo spirito di fondo, cioè la capacità di donare qualcosa di me all'altro, anche la povertà non potrà essere affrontata. Quindi non è un discorso di un Gesù che relativizza i poveri presenti nel mondo, ma che indica, attraverso l'esempio che lui è, attraverso la sua stessa esperienza di vita, qual è la via per affrontare la propria vocazione e anche la propria responsabilità nei confronti degli altri. È necessario questa via di spreco. Quindi quello che possiamo ritenere da questo brano centrale è un duplice messaggio. Primo messaggio: ci troviamo confrontati con un Gesù che abita la storia al punto da non aver timore di abitare anche gli spazi considerati impuri dalla gente. Ecco il Simone il lebbroso che abbiamo visto all'inizio, ecco l'essere disteso a mensa, secondo l'usanza della popolazione pagana, ecco l'accoglienza di una donna che entra in quella casa nello sopore generale. Tanto vero che questa scena, lo sappiamo, viene ripresa da altri evangelisti e diventa un po' la cornice di un altro episodio diverso, ma che però viene ricollegato a questa scena di Betania, che è l'episodio della peccatrice della città. Secondo insegnamento che possiamo trarre da questo episodio è l'immagine dello spreco. Gesù sceglie l'immagine dello spreco come icona anticipatrice della sua identità. Non è la prima volta che troviamo un Gesù che sceglie l'immagine di una donna per identificare quello che lo sta aspettando. Se voi ricordate, alla fine del capitolo 12, quando eravamo nella zona del Tempio, davanti al tesoro del Tempio, ci eravamo ritrovati a confronto con un'altra figura. Era la figura della vedova. Quella vedova che gettò nel tesoro del Tempio pochi spiccioli, che erano tutta la sua vita, e che diventa per Gesù un motivo di insegnamento. Se ricordate quell'episodio, anche in quella occasione Gesù aveva convocato i suoi discepoli, il verbo utilizzato era proprio quello della convocazione, proscaleo, che è un verbo greco forte che non indica solo il chiamare, ma il convocare per dare un insegnamento forte. aveva preceduto ancora con l'espressione «in verità vi dico», e aveva fatto di quella donna l'emblema di quello che lo stava, che stava aspettando lui stesso, cioè il dono di tutta la propria vita. Come quella donna era uno spreco, stava sprecando se stessa, perché Gesù nel giro di pochi versetti dirà che di quel tempio non resta pietra su pietra, quindi a che pro mettere tutto quello che uno ha nel tesoro del tempio se quel tempio va distrutto? Quindi era un gesto di spreco, no? Come quella donna donava tutto se stesso in modo quasi assurdo agli occhi degli altri per il suo amore al Tempio, così Gesù sta donando tutto se stesso per amore dell'umanità. E allora lasciamo anche qua un breve stacco di silenzio o musicale per cercare un attimo di interiorizzare anche questa seconda scena. Da un lato abbiamo visto le autorità religiose che vivevano all'insegna della massima contraddizione e del massimo calcolo, di qua invece abbiamo l'opposto, abbiamo un Gesù che è talmente dedito all'uomo da donare tutto se stesso, da non fare nessun calcolo e da identificarsi con una scena di spreco totale. Quindi lasciamo un breve stacco, dopodiché riprenderemo con l'ultima parte della cornice narrativa, vale a dire gli ultimi due versetti. Eccoci quindi all'ultima parte della cornice narrativa, dopo l'introduzione delle autorità religiose e il corpo del racconto che abbiamo visto, sottolineava la partecipazione di Gesù ai bisogni dell'uomo, alla realtà dell'uomo e l'immagine forte dello spreco, quindi la donna di Betania che viene identificata con Gesù, il racconto continua dicendo cosa succede, quindi chiudendo la cornice narrativa. Ascoltiamo i versetti da 10 a 11. Nel frattempo Giuda Iscariota, uno dei 12, se ne andò dai capi dei sacerdoti per consegnarlo loro. Essi, dopo averlo ascoltato, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Così egli cercava il modo in cui consegnarlo loro al momento opportuno. Ecco, questa è la chiusura della cornice narrativa. L'episodio era iniziato con l'obiettivo delle autorità religiose, capi dei sacerdoti e scribi, che volevano prendere Gesù con inganno per farlo morire, ed ecco che si presenta loro un'occasione d'oro. Niente meno che uno dei suoi discepoli va da loro cercando di imbastire il modo in cui consegnare Gesù. Il testo greco che sta alla base delle nostre traduzioni ha delle finezze che rischiano di sfuggire al lettore in una traduzione. La prima finezza è legata a quell'uno dei 12. Quell'uno dei 12 nel testo greco ha un'anomalia grammaticale, cioè il numero 1 è preceduto da un articolo e quell'articolo enfatizza. Cioè, noi dovremmo tradurre alla lettera Giuda Iscariota proprio uno di loro, proprio uno dei 12. Cioè, l'evangelista sembra quasi evidenziare che l'anomalia non nasce da fuori, il pericolo nasce da dentro. Proprio uno di coloro che dovrebbero seguire Gesù è uno di coloro che lo tradiscono e lo consegna. È uno di coloro che mette il bastone tra le ruote e va incontro ad un disegno che è abitato dall'inganno. Non solo, ci viene detto che uno dei 12 se ne andò dai capi dei sacerdoti. Qua il verbo che viene utilizzato in greco è un verbo che viene utilizzato anche per indicare l'apostasia, non è solo uno che se ne va, è proprio uno che non va solo dai capi dei sacerdoti, ma si distacca anche dalla sua comunità, si distacca anche dalla comunione con Gesù. Quel gesto è un gesto che pone Giuda fuori dal gruppo dei 12. E poi l'obiettivo è quello di consegnarlo. Ecco, qua c'è un terzo verbo che è un verbo importantissimo nella narrazione della passione, il verbo paradidomi in greco, per chi lo conosce, ed è il verbo della consegna. È un verbo che caratterizza tutto il racconto della passione. se voi percorrete il racconto della passione, vedrete che Gesù in ogni momento viene consegnato a qualcuno. Prima viene consegnato ai soldati, i soldati lo consegnano alle autorità religiose, le autorità religiose lo consegnano a Pilato, Pilato lo consegna ai soldati, i soldati lo consegnano alla crocifissione e alla fine Gesù si consegna nelle mani del Padre. È un atto di consegna successiva, dove Gesù sembra quasi una persona in balia delle mani degli uomini, che lo passano da uno all'altro, passando in rassegna tutte quelle che erano le categorie sociali del tempo, le autorità religiose, le autorità politiche, i soldati, la folla, la croce. C'è un passaggio da un gruppo all'altro e il primo passaggio avviene da uno dei 12, dai discepoli. Quindi Giuda consegna, è la prima mano che consegna a tutte le altre la figura del proprio maestro. Ovviamente qui c'è un'immagine anche qua forte, cioè da un lato apparentemente sembra che Gesù sia diventato una persona passiva che viene consegnata da una mano all'altra, dall'altro l'Evangelista sottolinea che qui si compie lo spreco, cioè è Gesù che consegna se stesso e permette che tutto questo avvenga, e ciò lo dimostra il grido finale della sua preghiera, Dio mio perché mi hai abbandonato, che è il grido della preghiera di chi si consegna, ecco l'ultimo atto, nelle mani di Dio, consegnando agli uomini quello che di più prezioso ha, cioè lo spirito, l'ultimo atto della sua vita, quello del momento in cui Gesù muore. Giuda in questa seconda cornice narrativa che chiude il racconto si presenta come l'antidiscepolo per eccellenza. Se la donna di Betania è la figura del discepolo per eccellenza, cioè la figura di colei che dà totalmente se stessa per Gesù, riconoscendolo come colui che è degno di ricevere tutta la ricchezza che lei ha e di infrangere tutto quello che lei ha, Giuda al contrario è l'emblema dell'antidiscepolo, è colui che trattiene per sé, è colui che consegna il suo maestro distaccandosi da lui ed è colui che, ahimè, non solo va a parlare del suo maestro alle autorità religiose entrando nella loro logica di inganno, ma entra anche in una logica di calcolo. In quel promisero di dargli del denaro c'è la grande ombra che cala su Giuda, un'ombra che sarà particolarmente potenziata nel Vangelo di Matteo e di Giovanni, dove Giuda diventa addirittura il ladro del gruppo dei 12, colui che per una somma di denaro ben precisa, che viene associata ovviamente ad alcuni testi dell'Antico Testamento, fa la fine dell'uomo empio, cioè fa la fine dell'uomo che il nome del denaro tradisce il proprio amico. Così egli cercava il modo in cui consegnarlo loro al momento opportuno. Quindi così si chiude questa scena. Quindi abbiamo visto come questo primo banchetto, che è il banchetto di Betania nella casa di Simone il Lebbroso, già mette a fuoco quello che si svolgerà nei capitoli successivi. Al centro l'immagine di un Gesù che si spreca donando totalmente se stesso, agli estremi i due grandi calcolatori, le autorità religiose che non vogliono perdere il loro potere e quindi fanno di tutto per mettere fuori scena Gesù e lo fanno tradendo proprio quello che celebrano, gli azimi e la Pasqua, dall'altro il secondo calcolatore, Giuda, che pur di percorrere una via che lui solo conosce, cosa fa? Tradisce il suo maestro consegnandolo nelle mani delle autorità religiose ed entrando nella logica del calcolo, calcolo di denaro, calcolo di modalità perché cercava il modo di consegnarlo, calcolo dei tempi, cercava il tempo opportuno. Quindi ci sono come due forze negative che sembrano stringersi attorno alla figura di Gesù e soffocarlo. Ecco, a tutto questo Gesù non si oppone, ma vive lo spreco, sa donare se stesso anche quando attorno a sé tutto sembra dire il contrario, anche quando attorno a sé ci sono solo forze negative. E questa è una grande sfida, la grande sfida che il cristianesimo lancia alla storia, quello di saper donare anche quando attorno a sé sì, ci sono forze ostili che premono. Ecco, cari ascoltatori, questo capitolo 14 in questi 11 versetti penso abbia molto da dire anche questa sera. Quindi adesso lasciamo lo spazio alle vostre domande e ai vostri interrogativi. Come sapete anche la parte dei vostri interrogativi è preziosa, cioè questa nostra puntata, questa nostra trasmissione si regge da un lato su quello che dico io, ma anche dall'altro su quelle che sono le vostre perplessità, le vostre riflessioni, i vostri interrogativi, che diventano un motivo ulteriore per approfondire quanto ci siamo detto e una condivisione con tutti coloro che in questo momento stanno ascoltando. Quindi vi invito ad intervenire per poter continuare la nostra riflessione. Nel frattempo lasciamo un altro stacco musicale in modo da continuare a interiorizzare quanto la parola di Marco ci ha detto. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto, buonasera padre, mi chiamo Franco. Volevo chiedere, Franco. Lei prima diceva che in occasione dell'ultima Pasqua di Gesù a Gerusalemme probabilmente tanta gente non sapeva neanche chi era Gesù. E mi chiedevo, Gesù aveva predicato per 3 anni girando in tutti i villaggi, aveva fatto tanti miracoli, quindi mi ero un po' immaginato che fosse sulla bocca di tutti, ecco, e per quello che immagino il territorio non era neanche vastissimo, quindi volevo capire un pochino questa sua affermazione da dove, ecco, se me la poteva spiegare meglio. Grazie, certo, certo. Allora, la ringrazio Franco per questa domanda che ci permette di entrare un pochino in alcune ricostruzioni della vicenda di Gesù nel primo secolo. Una degli studi che si sono sviluppati negli ultimi anni su Gesù concerne la cosiddetta terza ricerca storica su Gesù, cioè lungo l'ultimo secolo si sono sviluppati diversi approcci alla figura di Gesù. L'ultima modalità di questo approccio, la cosiddetta terza ricerca, cerca di contestualizzare tutta la storia di Gesù a partire dallo sfondo sociale, soprattutto ebraico, del primo secolo. Ora, noi sappiamo dalle ricostruzioni del primo secolo, dalle ricostruzioni anche degli storici del primo secolo, che nella Gerusalemme del primo secolo, nella Palestina del primo secolo, erano diverse le correnti religiose presenti. Ci sono state alcune figure di spicco che hanno fatto notizia, altre che sono passate quasi quasi in secondo piano. Ora sicuramente la figura di Gesù era conosciuta per la sua predicazione e i suoi miracoli, però Gesù non era l'unico grande maestro del primo secolo, c'erano molti maestri, molte correnti di scuola, molte correnti di pensiero. Tra l'altro il momento della festa di Pasqua e degli azimi era un momento di particolare confusione. C'è chi dice, Giuseppe Flavio è uno che un pochino esagera con i numeri, però dice che nella Gerusalemme del primo secolo, quando era Pasqua, si riusciva ad arrivare anche a 1 milione di persone, e questo 1 milione di persone arrivava un po' da tutte le parti della Palestina. Quindi più la gente è numerosa, più la gente è manipolabile e più è facile che questa gente non conosca effettivamente chi sia la persona poi imputata dal potere romano. Quindi il fatto anche che la gente sia stata un pochino manipolata nel fare un capo di accusa a Gesù porta a dire che forse coloro che erano attorno a Gesù e che lo conoscevano da vicino non erano poi così tante persone. Questo non significa che non ce n'era nessuno, che erano solo un numero ridotto, però dobbiamo un pochino rivedere la posizione, una certa posizione dove tutti sapevano nel primo secolo o nella Gerusalemme del primo secolo chi era Gesù. Teniamo presente che, stando anche alla tradizione dei Vangeli, pur compiendo un gesto molto forte, che era quello della cacciata dei venditori del Tempio, Gesù sembra che, una volta arrivato a Gerusalemme, se ne stia un pochino in disparte. Cioè, il Tempio a un certo punto non lo frequenta più, preferisce stare ai margini, a Betania. E quindi anche questa sua scelta sembra essere un particolarmente strategica. Il Vangelo di Giovanni è ancora più esplicito di questo, dice che Gesù cerca il più possibile di stare nascosto. Lo stesso ingresso che noi diciamo ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, notiamo che di trionfale ha davvero poco, perché una volta che Gesù arriva nella città santa, con alcuni davanti e alcuni dietro che gridano comunque, che osannano, che cantano a Gesù, a un certo punto tutta la scena si scioglie e Gesù resta da solo e non sappiamo, non si capisce bene dove siano andate tutte le folle. Cioè c'è una sorta, dobbiamo stare attenti a non pensare alla figura di Gesù come una figura dominante prima degli eventi. La figura di Gesù comincia a imporsi in modo forte e deciso soprattutto dopo il grande evento del mistero pasquale, quindi dopo la sua risurrezione. Lì c'è il grande elemento di novità, non sono i miracoli che hanno attirato le folle, i miracoli alla fine si rivelano fallimentari, è l'elemento che sta al nucleo della fede cristiana, che renderà le comunità cristiane sempre più incisive nella storia. Ecco, prendo spunto di questo per fare un ulteriore appunto, cioè anche quando noi pensiamo a quelle che sono le comunità cristiane della prima ora, dobbiamo stare attenti a pensare a queste comunità secondo l'unità di misura nostra oggi. Quando noi parliamo dei Corinzi, ad esempio, della comunità di Corinto, che ha due lettere intere dedicate a questa comunità nel Nuovo Testamento, a volte possiamo immaginarci delle comunità articolate. Gli studiosi dicono che probabilmente Corinto arrivava a un massimo, sì e no, di 50-80 persone, in una città enorme, dove 50-80 persone scomparivano. E queste 50-80 persone per di più erano suddivise in diverse chiese domestiche, che sono poi quelle chiese domestiche non sempre in sintonia tra di loro, una che si rifaceva di più a Cefa, una ad Apollo, una a Paolo, una direttamente a Gesù Cristo, in base un pochino al punto di gravità principale su cui veniva costruito la formazione e l'insegnamento di queste comunità. E Paolo ha il suo bel da fare di dire ok, ma stiamo almeno uniti tra di noi, non c'è né Paolo né Apollo né Cefa, ma c'è solo Cristo che manda tutti per radicarci nel suo mistero pasquale. Anche qua è importante riuscire a ridimensionare un pochino un certo immaginario che potrebbe portarci a concepire le cose in un determinato modo. Ecco, per suggerire così un approfondimento di questi studi, basterebbe leggere gli approfondimenti di James Dunn, che sono stati pubblicati dalla Paideia. Sono diversi volumi che ricostruiscono storicamente tutto lo sfondo storico di Gesù, oppure un altro testo molto interessante è quello di John P. Meyer, pubblicato, se non erro, dalla Queriniana. Ecco, sono due testi che permettono di ricostruire, secondo le linee della terza ricerca storica di Gesù, cioè quella più attuale, di ricostruire il profilo di Gesù e del mondo in cui lui ha operato, e che attraverso diversi dati molto più articolati di quelli che vi sto comunicando io, ci aiutano anche a capire un po' le dimensioni in cui tutto si svolgeva. Ciò detto, non significa che Gesù sia passato del tutto inosservato. Abbiamo alcuni documenti proprio del primo secolo, tra l'altro di Giuseppe Flavio, che sembrano fare riferimento sia a Giovanni Battista in modo esplicito e pare anche a Gesù, anche se alcuni studiosi su quest'ultimo aspetto sollevano un interrogativo, mentre su Giovanni Battista si è sicuri che Giuseppe Flavio abbia proprio scritto su di lui un testo abbastanza lungo e significativo. Grazie quindi Franco per la tua domanda. Sì, pronto? Pronto, buonasera. Sì, buonasera Don Giacomo, sono Gianni, chiamo dalla provincia di Frosinone. Niente, io le volevo fare una domanda un po' apparentemente semplice. Il consegnarsi di Gesù alla croce e poi al Padre può essere interpreso come noi, a noi cristiani, come un senso di consegnarsi ogni giorno alle fatiche, alle problematiche, alle sofferenze, in quanto io pure sono purtroppo separato e ne soffro molto perché non volevo questa separazione. Quindi questo consegnarsi, questo sacrificio, questo senso di offrirsi, ecco, all'impegno vicino a un figlio, vicino a una persona che comunque, ecco, ha bisogno e di qualsiasi genere e grado, questo consegnarsi può essere, ecco, in questo modo pensato, capito? Ecco, io questo le volevo chiedere Don Giacomo, la ringrazio molto e buona serata. Grazie di cuore Gianni per questa tua domanda e soprattutto per la condivisione di un pezzo delicatissimo, intimo della tua vita, no? Che è quello della separazione. Ecco, penso che l'interpretazione che tu hai dato sia proprio un'interpretazione corretta. La consegna di Gesù è la consegna di colui che accetta di amare quando attorno a sé c'è soltanto l'odio. E in questo modo permette all'amore di continuare a costruire. Ecco, se io penso ad alcune relazioni che sono a volte relazioni difficili, no? Tra partner, tra coniugi, alla relazione stessa che tu probabilmente hai vissuto, dove c'è il dolore di una separazione, quindi immagino pagine di incomprensione, pagine di sofferenza, di lacrime, consegnarsi significa accettare, cioè di continuare ad amare nonostante tutto. Ed è ovvio che questo amore si riversa prima di tutto sulle persone più vicine a te, e le persone più vicine a te sono i tuoi figli, è la tua stessa persona, perché a volte quando uno vive situazioni del genere non ama più nemmeno se stesso, cioè entra in un circolo di tristezza, di dolore, a volte anche di depressione, in cui non vedi futuro, e non vedendo futuro c'è qualcosa che ti soffoca, no? Ti senti incompiuto, ti senti mancare, ti manca il respiro. L'accettare di continuare ad amare nonostante tutto diventa il segno della consegna nelle mani di colui, il creatore, Dio, nelle mani di colui che vede più in profondo di noi stessi e continua a costruire attraverso i nostri poveri cocci. Quindi il tuo atto di consegna è proprio questo, continuare ad amare chi ti sta accanto, continuare a investire su un futuro che ti vede come protagonista, non come una persona ai margini, anzi, proprio per quello che tu hai vissuto, per il dolore che hai passato, ti rende ancora più prezioso agli occhi di Dio e più capace magari di accogliere, di ascoltare, di recepire le sofferenze della gente che ti cammina a fianco. Grazie Gianni per la tua testimonianza. E buonasera. Buonasera, con chi parlo? Io sono Antonella, chiamo da Genova. Mi dica Antonella. La ringrazio molto perché quella riflessione molto profonda sul nardo non l'avevo mai sentita, non l'avevo mai colta, cioè sul profumo che viene versato su Gesù, ed è il simbolo del suo amore, della vita che lui dà per noi. Cioè mi si è aperto un mondo, non so come dire. La ringrazio veramente, anche quell'altra, le parole che ha detto poco fa a quel signore a proposito del consegnare se stessi, le sento molto, no? Anche sull'amare, continuare ad amare nonostante tutto, molto bello. Certo. Grazie Antonella per questa sua sottolineatura, che mi permette di condividere con voi una piccola esperienza, no? Che quando commento questo brano in genere richiamo, quindi magari qualcuno l'ha già sentita, ed è un'esperienza che feci 3 anni fa in occasione di una meditazione che tenni in una parrocchia, dove chi aveva organizzato questo momento volle accompagnare il momento della meditazione con un gesto concreto, e il gesto concreto era l'unzione sulla palma delle mani del nardo. Quindi aveva proprio preso un nardo vero e proprio che proveniva dalla Terra Santa, e quindi io, che ero il celebrante, dovevo ungere le mani di tutti. Il problema è che il nardo è un profumo molto intenso, ma davvero intenso, e anche un pochino femminile dal mio punto di vista. Quindi io mi trovavo a dover ungere con il pollice tutte le palme delle persone presenti. Le persone presenti erano tante. Ebbene, io ebbi addosso a me il profumo del nardo per almeno una settimana intera, e non riuscivo, potevo lavare le mani quanto volevo, ma quel profumo era così intenso che si era impregnato nella pelle, no? E questo, se da un lato fa sorridere, dall'altro mi fece riflettere, perché se io immagino questo profumo che viene versato sul capo di Gesù, intero, quindi è una boccetta di alabastro intera, il costo dice anche la quantità, cioè non era poco quel profumo, no? E quindi questa cosa che diventa, questa essenza così forte che diventa una sola cosa con Gesù, lo deve aver accompagnato per tutto, per tutti i giorni a seguire. E i giorni a seguire sono i giorni più difficili del suo ministero. È un po' come se in quel gesto il Padre Celeste non solo dice a Gesù qual è la sua vocazione è quella di rappresentare l'amore di Dio all'insegna di uno spreco, di una gratuità a 360 gradi, ma vuole che questa cosa gli si imprimi così tanto nella sua pelle da accompagnarlo in tutti i passi difficili che Gesù deve fare, perché non dimentichiamolo, per Gesù non è stata ogni sì gli è costato sangue, ha sudato sangue, però ecco, quel profumo che si è impregnato fortemente dentro di lui probabilmente gli ha ricordato, questa è una riflessione mia, non c'è scritto nel Vangelo, ma probabilmente gli ha ricordato continuamente la vocazione che si stava per compiere, quel dono che si stava per compiere, e che poi si è tradotto ovviamente nel dono dello Spirito all'umanità. Quindi c'è questo dettaglio ulteriore, no? del vaso spezzato e del profumo versato, che diventano un'unica cosa con la vocazione di cui Gesù è portavoce. E guarda caso, noi quando entriamo nel cammino cristiano, qual è il gesto che esprime il nostro battesimo? Certo, c'è il gesto dell'acqua, che veniamo immersi tre volte nell'acqua e battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma altrettanto importante all'interno del rito ufficiale, se non avviene in contesti particolari, altrettanto importante è l'unzione con il crisma, cioè è anche qua l'elemento dell'unzione particolare che ti si impregna con la tua pelle, che diventa un'unica cosa con te, ti richiama la vocazione che hai ricevuto e che ti dovrebbe sostenere nei momenti difficili della tua storia, del tuo cammino. Quindi grazie a Antonella per questo suo feedback, che ci ha permesso di riprendere proprio un passaggio importantissimo di questo brano. Pronto? Pronto, buonasera. Con chi buonasera, parlo? Buonasera, Don Giacomo, mi chiamo sì. Marisa. La disturbo, mi dica, Marisa. Volevo condividere con lei un piccolo pensiero riferito alla donna, alla discepola, sì. che ha coperto il capo di Gesù con questo unguento prezioso. Io l'ho interpretato, mentre lei lo spiegava, come anche il dono che deve fare il discepolo, cioè questa persona ha dato la cosa probabilmente più preziosa e l'ha offerta a Dio come dono, e quindi ho pensato che potrebbe, non so come se mi spiego bene, però certo, che come il discepolo dà le cose più preziose a Dio e diventa poi una compartecipazione, perché diventa un'offerta poi che lui trasforma a sua volta in offerta. Grazie di cuore Marisa, perché effettivamente hai colto nel segno. La figura di questa donna, la donna di Betania, rappresenta proprio la figura del discepolo. E Giuda, che viene subito dopo, è l'antidiscepolo. C'è sempre nel Vangelo di Marco, c'è spesso nel Vangelo di Marco, questo, come dire, questa sorta di mettere a confronto l'elemento maschile e l'elemento femminile, dove l'elemento femminile prevale come testimonianza su quello maschile. L'abbiamo visto anche in altre circostanze, lo vedremo in modo forte nel contesto della croce, perché nel momento della croce vedremo che tutti i discepoli escono di scena nel Vangelo di Marco, mentre le uniche che restano in scena pur guardando da lontano sono le donne, sono quelle donne che osservano da lontano ma che però l'hanno seguito e servito dalla Galilea a Gerusalemme. È ovvio che anche qua il cammino diventa significativo, cioè c'è nel Vangelo di Marco una sottolineatura preziosa. Tra l'altro, come vi dicevo, quel convocare i discepoli e iniziare il discorso con "in verità vi dico", ogni volta è un insegnamento che viene fatto ai discepoli, e guarda caso ogni volta che c'è un insegnamento c'è sempre di mezzo, come figura esemplare, la figura di una donna. La donna povera che getta gli spiccioli, la vedova che getta gli spiccioli al tempio, ora la donna di Betania. Prima c'erano stati altri episodi che hanno visto delle donne protagoniste, ricordate la suocera di Pietro, ricordate la donna che perdeva sangue. E così il primo giorno dopo il sabato abbiamo ancora a che fare con alcune donne, eh? Abbiamo le donne che vanno al sepolcro confrontate con un'altra figura, questa volta alla fine del Vangelo sarà la figura maschile che diventa positiva rispetto a quella femminile delle donne che fuggono e non dicono niente a nessuno, ed è questo giovane che annuncia. Quindi c'è nel Vangelo di Marco questa questo gioco continuo tra il maschile e il femminile, e che richiama a mio avviso anche quell'impostazione di fondo che Marco dà al suo Vangelo. Vi dicevo all'inizio, il Vangelo di Marco si costruisce su 7 archi narrativi, come i 7 giorni della creazione. L'arco narrativo che noi stiamo commentando adesso è l'arco narrativo del 6° giorno, che combacia nella creazione con la creazione dell'uomo e della donna. Ora qui l'uomo e la donna esemplari chi sono? L'uomo è Gesù, che dona tutto se stesso nell'immagine dello spreco, la donna è la donna di Betania, che compie quello stesso gesto che compie Gesù, e non è a caso, questo abbinamento non è casuale, l'evangelista vuole dirci qualcosa che ha a che fare con il suo tema dominante, che è il tema del discepolato. Grazie quindi Marisa per questa evidenziazione. Pronto? Pronto. Buonasera Don Giacomo. Buonasera, con chi parlo? Sono Maria dalla Sardegna. Sì, mi dica Suor Maria. No, Maria dalla Sardegna, dentro, non Suor Maria. Bene, mi scusi. Niente. Allora, tempo fa lei ha parlato dell'ovolo della vedova. Sì. E anche oggi l'ha ricordata. Naturalmente nella domenica, mi pare 32esima del tempo ordinario, si parlava proprio dell'ovolo della vedova ed è stata associata agli scribi in senso antitetico e poi a Gesù, quindi si è passato praticamente, lei aveva detto, alla dimensione verticale. La vedova ha donato se stessa come Gesù ha donato se stesso per la salvezza dell'umanità. Poi nel foglietto delle letture, appunto di questa domenica 32esima, c'è un altro brano tratto dal primo libro dei Re. In questo brano si parla della vedova di Sarepta di Sidone. La domanda è: anche la vedova di Sarepta ha donato tutto? Quindi va associata alla dimensione verticale, e tutte e due le vedove vanno associate a Gesù. Si parla quindi di doni, sia della vedova del Vangelo, sia della vedova del primo libro dei Re. E quindi si possono associare tutte e due a Gesù, nel senso che tutte e due hanno donato loro stesse. La ringrazio. e l'ascolto per radio. Buonasera Don Giacomo. Grazie mille signora Maria, mamma come ascolta con attenzione le catechesi, complimenti. Allora, io vorrei fare questa sottolineatura, no, riguardo alle due vedove. Gesù parte da situazione, nel caso della, cominciamo dalla vedova del Tempio, che ha a che fare con il racconto evangelico. Gesù prende la scena della vedova che si avvicina al tesoro del Tempio e la associa, ne fa un insegnamento per i suoi discepoli. Ora, noi sappiamo che questa vedova era sicuramente una ebrea credente, visto che investe qualcosa di se stesso nel Tempio. Gesù parte quindi da una situazione di osservanza giudaica per dire ai discepoli: ecco, questo è il tipo di coinvolgimento nel discepolato che io vi chiedo. E Gesù confermerà questo con il dono di sé, cioè è un duplice percorso che viene indicato: da un lato la cita a modello, cioè vi chiede un coinvolgimento totale così, dall'altro lo vive, se vive lui in prima persona. Perché la vedova che getta gli spiccioli nel tesoro del Tempio è una figura da citare, da indicare a modello, se ha gettato così poco? Perché quello che lei mette nel tesoro del Tempio, dice Gesù, nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. E qua vi dicevo che la traduzione non è totalmente fedele al greco. Il greco ha olon ton bion, ha gettato tutta la sua vita, tutta la vita nel tesoro del Tempio. La legge del tempo, del primo secolo, suggeriva in casi di povertà alla gente di non donare al Tempio e di non donare al Signore più di un quinto di quello che uno possedeva. Ora, questa vedova altro che un quinto, butta via tutto. E allora alcuni dicono: è un esempio negativo, perché questo gesto non è un gesto di vita, ma un gesto di morte. Questa vedova si lascia morire gettando tutto se stesso nel Tempio. Invece Gesù utilizza questa immagine come immagine di quel dono totale di sé che deve accompagnare la via del discepolato. Che è facile a dirsi, ma quando si tratta di vivere sta cosa è tutta un'altra musica, perché se noi facciamo un attimo un esame di coscienza sul nostro modo di seguire Gesù, sul nostro modo di seguire la vocazione cristiana che abbiamo, notiamo che calcoliamo più di quanto pensiamo, per cui arriviamo fino a un certo punto, poi oltre no. Quante volte pensiamo anche solo alle relazioni fraterne, no? Che sono quelle che ci accompagnano ogni giorno e che caratterizzano il nostro modo di vivere in famiglia, sul lavoro. Quante volte di fronte a una persona che ci dà fastidio, che ci pesta i piedi, noi diciamo: basta, adesso basta. E Gesù non dice mai basta. Se avesse detto basta, non si sarebbe sprecato. Gesù non chiude mai le porte, le sue porte restano sempre aperte, anche se questo non gli impedisce di essere vero, radicale, totale. Ecco allora che l'emblema di questa vedova che dà tutto è da un lato un emblema di un investimento pazzo, assurdo, che persino la legge non permetteva, dall'altro però diventa segno del coinvolgimento che Gesù chiede. La vedova di Zarepta, l'altra vedova che lei cita, l'episodio della vedova di Zarepta è molto simpatico, perché? Perché questa vedova di Elia non ne vuole proprio sapere niente. Quando Elia va da lei e gli dice: vai a prendermi una brocca d'acqua, il testo dice che la vedova si mette in cammino, ma non dice che va a prendere la brocca d'acqua. Elia vede che si sta muovendo e gli dice: cuocimi anche un po' di pane. E la vedova cosa gli risponde? Non gli risponde dicendo subito, gli risponde dicendo: andrò a prendere un po' di olio, la farina, mi farò del pane, lo mangeremo io e mio figlio e poi moriremo. Quindi non gli dice vado a cuocere il pane per te, dice vado a cuocere il pane per me e per mio figlio e poi noi moriremo, tu arrangiati. Tra l'altro ricordiamo la carestia, che sta creando tutti quei problemi è una carestia, cioè la carestia che sta causando la morte degli israeliti nel momento in cui si presenta in scena Elia, non è mica una carestia che ha mandato Dio, è una carestia che ha implorato Elia. Quindi Dio sta mettendo Elia anche di fronte a quello che causa il suo intervento drastico sul popolo. Sapete, noi consideriamo Elia come il grande profeta dell'Antico Testamento, ma Elia è grande per tutto il cammino di trasformazione che Dio gli ha fatto fare, servendosi anche di episodi come questo, cioè l'episodio di Elia che davanti alla vedova si rende conto che sta facendo morire il futuro del popolo, perché qua questa vedova non ha marito, il suo figlio, che è il suo futuro, sta morendo, cosa fare? Ecco, di fronte alla chiusura della donna, Elia gli chiede un atto di fiducia, gli dice: va questo, l'olio dell'orcio non finirà e la farina non terminerà. E cosa dice la donna? La donna dice: in nome del Signore tuo Dio io farò tutto questo, ma dice ancora: in nome del Signore tuo Dio, non dice mio Dio. Lentamente nel racconto, se voi andate a leggere il racconto per intero, notate che questa donna fa un percorso di fede. Passa dal no al Signore tuo Dio, passa dal Signore tuo Dio al Dio di Israele, passa dal Dio di Israele al nostro Dio. Quindi c'è un percorso di fede da parte di questa donna nella narrazione, però non è un percorso di fede scontato. Quindi questa vedova è icona del vero discepolo? È icona di Gesù? Non lo so. Diventa sicuramente icona del discepolo quando si lascia accompagnare dal profeta di Dio, nonostante tutte le ambiguità del profeta di Dio in causa, cioè Elia, si lascia accompagnare da questo profeta e compie l'atto di fiducia. Allora lì sì, allora lì diventa simbolo del discepolo. Tanto vero che Gesù farà di questa donna pagana, la vedova di Zaretta, un emblema di adesione alla fede. Quando lui predicherà nella sinagoga di Nazareth, dirà: cari israeliti, cari correligionari, non siete degni di ricevere la parola di Dio, non siete altrettanto degni di Naaman il Siro e della vedova di Zaretta, che più di voi, nonostante avessero una posizione opposta all'inizio, si sono però lasciati mettere in discussione. Anche Naaman il Siro, il lebbroso, all'inizio mica voleva accettare di fare quello che gli aveva detto Eliseo, di andare a bagnarsi 7 volte nel Giordano. Lui aveva dei fiumi molto più puliti e molto più grandi in cui andare a bagnarsi, però alla fine ha accettato quel servo che gli dice: ma cosa ti costa, fallo, se ti va male, ti va male, ma magari ti va bene, quindi non ti costa niente, pucciati 7 volte nel Giordano e vedrai, poi alla fine potrai anche, se le cose non vanno bene, potrai anche maledire il profeta di Dio, ma così almeno prova. E Naaman il Siro si lascia mettere in discussione, poi addirittura vorrà portare con sé la terra dove ha messo i piedi Eliseo, no? Per non adorare più gli idoli, ma anche qua abbiamo il caso di un pagano che si lascia mettere in discussione e che dal rifiuto passa all'accoglienza, in nome della fede. Ecco allora, dire che è icona di Gesù non si può dire, perché nell'Antico Testamento non si prevedeva ancora la figura di Gesù, ma sicuramente icona del discepolo. Quindi grazie signora Maria della Sardegna per averci evocato queste due figure che in qualche modo ci permettono di ricollegarci con la donna di Betania. Grazie di cuore. Pronto? Pronto? Sì, con chi parlo? Buonasera, Nicola dal Molise. Mi dica, Nicola. Io volevo fare una domanda un po' che esula un po' dal ragionamento che stavo facendo. Sono un divorziato e quindi per quanto riguarda la comunione, che purtroppo è divorziata, non viene data, però mi è stato suggerito che sto facendo dal vescovo che pur non andare a prendere la porzione, la comunione, di mettersi comunque in fila. Arrivato dal sacerdote, quindi con le mani contrette, il sacerdote invece di dare la comunione fa un segno di croce sulla fronte, ritenendo una cosa importante. Ora, se questo è valido, potrebbe essere fatto un po' in via generale, per tutta Italia e dopo per tutto il mondo, non lo so. Allora, lei che cosa ne pensa? Sì, grazie Nicola per questo suo intervento. Anche lei condivide una porzione della sua vita che sicuramente è delicata. Allora, il suo vescovo ovviamente ha dato un consiglio, un suggerimento partendo dalla conoscenza sua, no? E questo gesto che lei ha evidenziato, tra l'altro un gesto molto bello, è possibile in quelle comunità dove è il pastore della comunità, il parroco o il responsabile della comunità conosce tutti i suoi fedeli. Allora diventa bello un segno del genere perché è un gesto di accoglienza dove la persona si sente coinvolta in tutta la celebrazione anche se non può in questo momento perlomeno ancora ricevere il dono dell'Eucaristia. Ecco, dire di estendere questo a tutte le comunità cristiane non saprei. Quello che le posso dire è che i nostri vescovi, quindi i pastori delle nostre diocesi, si stanno confrontando parecchio su questo aspetto, no? Anche perché le situazioni complesse familiari, le situazioni familiari complesse si moltiplicano sempre di più e l'abbiamo visto oggi, il Signore ha sempre vissuto il suo ministero all'insegna dell'accoglienza massima delle persone. Compito della Chiesa non è sicuramente quello di giudicare, ma quello di fare discernimento e quello di mostrare la vicinanza di Dio. Quindi i casi vanno sempre visti uno ad uno, non c'è una storia che è uguale all'altra, non c'è un percorso che è uguale all'altro, ognuno porta dentro di sé delle sofferenze e delle risorse che solo Dio conosce. Quindi dire facciamo così tutti, certo sarebbe bello, però io sono convinto che i nostri pastori stanno facendo una riflessione ancora più profonda, che va al di là del singolo gesto, per vedere come venire incontro a queste diverse realtà. Tra l'altro conosco parrocchie, diocesi, dove ci sono proprio dei percorsi adeguati, delle celebrazioni mirate per le persone che vivono un'esperienza di divorzio alle spalle, in modo da assicurare anche un accompagnamento, come dire, a 360 gradi, che tenga conto di tutte le componenti, l'aspetto spirituale, l'aspetto umano e anche le difficoltà reali che poi uno si trova a vivere in queste situazioni. Quindi grazie Nicola per la tua testimonianza che ci dice anche che ci porta anche la testimonianza di una porzione di Chiesa attenta a tutti i suoi componenti. Grazie. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera Don Giacomo, sono Gabriella dall'Abruzzo. Io ho ascoltato tardi, ho iniziato ad ascoltare tardi la sua catechesi, forse non rientro nel tema, ma si tratta sempre del Vangelo di Marco. E riguarda il capitolo 11 e precisamente il fico sterile. Cioè si capisce, ma quello che io con altre persone che ne abbiamo discusso non riusciamo a capire, che il Signore va a cogliere i frutti dal fico ma era fuori stagione. Allora, che non si trovino frutti può essere sterile il fico, ma fuori stagione. Questo sembra come un paradosso che però noi non siamo riusciti a spiegarci. Ho detto adesso approfitto di Don Giacomo. La ringrazio Gabriella, lei con la sua domanda chiude praticamente gli interventi dei nostri ascoltatori. Questa immagine che ho avuto modo di riprendere nelle puntate scorse, io la leggo un po' come l'immagine simbolica del Tempio. Siamo nella sezione, quella del capitolo 11, in cui Gesù entra a Gerusalemme, l'immagine del Tempio domina questi capitoli, bene, il fico che viene ripreso all'inizio e alla fine di questa sezione è proprio l'immagine del Tempio, un Tempio che è appariscente all'esterno, al punto tale che i discepoli restano incantati di fronte alle sue belle pietre, un po' come il fogliame della pianta di fico, per cui uno dice, guarda che belle foglie, chissà cosa mi propone il fico, però all'interno è sterile, all'interno non c'è nulla, per cui un po' come il fico dietro le foglie non dà nessun frutto, lo stesso vale per il Tempio, non dà nessun frutto, non solo nel tempo della stagione, che corrisponde alle grandi feste di Israele, quindi alla Pasqua, agli azimi, a Pentecoste, alle capanne, ma anche quando non ci sono queste feste, la gente sale al Tempio, offre le sue offerte, cerca i dottori della legge, ma se ne torna a casa vuota, perché non c'è chi assume con responsabilità e con capacità di dono questo, cioè è proprio come un fico sterile, appariscente all'esterno, bello, una delle sette meraviglie del mondo, però all'interno non dà più nulla. Ecco, Gesù si presenterà come colui che toglie tutta la scorza esterna, muore come l'uomo nudo, l'uomo dei dolori, l'uomo che non è bello da vedere, ma dà il frutto per eccellenza, che è questo amore all'insegna dello spreco che questa sera abbiamo cercato di vedere, di commentare insieme. Grazie a tutti voi che siete intervenuti con le vostre domande, a Franco, a Gianni, ad Antonella da Genova, a Marisa, a Maria dalla Sardegna, a Nicola e a Gabriella per i vostri interrogativi. I vostri interrogativi hanno permesso a tutti noi di approfondire bene questo brano. Vi saluto tutti con una benedizione e vi do appuntamento tra un mese. Tra un mese saremo più o meno alle porte del Natale, il grande mistero del Dio con noi, e quindi auguro a ciascuno di voi di iniziare il percorso di Avvento con tanta dedizione e tanta fede. E ringrazio quelle mamme che mi hanno sostenuto con la preghiera secondo la richiesta che avevo fatto all'inizio di questa nostra puntata. Un caro saluto e una benedizione a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.